Il messaggio del Vangelo è certamente un messaggio unico, unico nel contenuto e nel progetto. Nel contenuto perché annuncia che il Figlio di Dio si è fatto uomo, nel progetto perché Dio ha programmato di salvare l'uomo perduto e lontano da Lui per grazia mediante la fede. In nessuna religione vi è una notizia del genere, nessuna mente umana ha mai potuto concepire un simile progetto. Salvare l'uomo per grazia, cioè senza nessun merito. Ma si commetterebbe un grave errore, pensando che tale progetto sia stato ideato da Dio solo con la venuta di Cristo, perché prima della fondazione del mondo la Deità nel suo consiglio aveva già deciso di salvare mediante un atto di grazia la creatura che avrebbe creata. Perciò la grazia, questo progetto di perdonare la creatura colpevole, è presente in tutte le opere di Dio, opere che troviamo scritte nella sua parola, la Bibbia. Il perdono non è qualcosa strappato a una divinità riluttante, ma è il dono di Dio che ha il desiderio di perdonare. È più che mai opportuno dunque considerare l'opera della grazia di Dio prima della venuta di Cristo, e cioè nell'Antico Testamento, opera che sarà poi resa evidente e completa con la venuta di suo Figlio. Vediamo la grazia di Dio espressa subito appena Adamo ed Eva disubbidiscono all'Eterno. I nostri progenitori si coprirono con delle foglie di fico perché si resero conto di essere nudi e si vergognavano di farsi vedere, ma l'Eterno fece loro delle tuniche di pelle e li vestì. Nel fare le tuniche di pelle, l'Eterno annunciava che del sangue innocente di un animale era stato sparso per coprire la loro nudità. Non vi era stata nessuna opera da parte di Adamo ed Eva. E il gesto dell'Eterno ha voluto esprimere all'uomo il desiderio di comunione e di riconciliazione. Anche con i patriarchi, e specialmente con Adamo, l'Eterno espresse la grazia giustificandoli mediante un atto di fede. Abramo credette all'Eterno e fu giustificato per fede e non per opere. In tal modo essa è per grazia, affinché la promessa sia assicurata a tutti coloro che hanno la fede di Abramo. Romani 4. Questo comportamento dell'Eterno è stato oggetto di studio dei primi cristiani, i quali hanno stabilito dottrine e principi sulla grazia di Dio basandosi proprio sui fatti descritti nell'Antico Testamento. Perciò, tra i gravi errori che si possono commettere nell'interpretare la volontà di Dio, quello imperdonabile è certamente non vedere la grazia di Dio come piano di salvezza per salvare l'uomo perduto. Circa 1500 anni prima di Cristo, l'Eterno dà la legge tramite Mosè. La legge, proprio perché è legge, non concede la grazia ma richiede obbedienza senza la quale, come è scritto, l'uomo è maledetto. Maledetto chi non si attiene alle parole di questa legge per metterle in pratica. E tutto il popolo dirà Amen. Deuteronomio 27-26. Nel dare la legge, sembra che l'Eterno offra all'uomo la possibilità della salvezza mediante le opere. Essa è stata data invece perché l'uomo potesse dimostrare il suo amore e timore per Dio, avendo come unico scopo il proprio bene. E ora, o Israele, che cosa richiede da te l'Eterno, il tuo Dio, se non di temere l'Eterno, il tuo Dio? Di camminare in tutte le sue vie, di amarlo e di servire l'Eterno, il tuo Dio, con tutto il tuo cuore e con tutta la tua anima, e di osservare per il tuo bene i comandamenti dell'Eterno e i suoi statuti che oggi ti comando? Deuteronomio 10:12-13. La legge è dunque giusta e necessaria per l'uomo. Perché come posso conoscere la volontà di Dio se questa non è espressa sotto forma di una legge? Nel dare la legge l'Eterno non ha mai sostenuto che essa procurava la salvezza, anche se la salvezza non si ottiene senza l'osservanza della legge, ma era ed è un mezzo per conoscere i suoi progetti e il suo carattere. Infatti, quando il profeta Samuele ordinò da parte dell'Eterno al re Saul di distruggere gli Amalechiti, e Saul non ubbidì risparmiando il meglio degli animali per offrirli all'Eterno, disse il profeta, «Gradisce forse l'Eterno gli olocausti e i sacrifici come l'ubbidire alla voce dell'Eterno? Ecco, l'ubbidienza è migliore del sacrificio, e ascoltare attentamente è meglio del grasso dei montoni». Poiché la ribellione è come il peccato di divinazione, e l'ostinatezza è come il culto agli idoli e agli dei domestici. Poiché hai rigettato la parola dell'Eterno, anch'egli ti ha rigettato come re. 1 Samuele 15, 22-23. Il profeta Samuele ha messo in evidenza un principio divino molto importante. Dio ha dato la legge non fine a se stessa, ma perché fosse uno strumento per dimostrare l'ubbidienza. L'Eterno aveva sì ordinato di fare dei sacrifici con i migliori animali, ma in questa occasione l'ordine era di ucciderli e non di conservarli. Ubbidire alla volontà dell'Eterno è meglio di ogni iniziativa proveniente dall'uomo, anche se questa iniziativa è contemplata nel volere di Dio. Circa 1000 anni prima di Cristo regnò il re Davide. Molto probabilmente Davide, figlio di Isaì, è stato il re profeta che più di tutti ha messo in evidenza la grazia di Dio. Nei Salmi ha usato espressioni che mettono in risalto come l'Eterno trattava i peccati. Ecco come si esprime nel Salmo 103. Benedici, anima mia, l'Eterno, e non dimenticare alcuno dei suoi benefici. Egli perdona tutte le tue iniquità e guarisce tutte le tue infermità. V2-3. Il cuore di Davide era riconoscente verso l'Eterno, perché il suo Dio non aveva più un sentimento di ira verso il colpevole, anche se gli faceva portare le conseguenze terrene dei suoi errori. L'Eterno è pietoso e clemente, lento all'ira e di grande benignità. Egli non ci tratta come meritano i nostri peccati e non ci castiga in base alle nostre colpe. Quanto è lontano il Levante dal Ponente, tanto a Egli è allontanato da noi le nostre colpe. Versetto 8-12. L'Eterno è talmente pietoso da allontanare i peccati. Allontanare significa togliere la causa dell'inimicizia e fare la pace. Nel Salmo 32 Davide usa altre tre espressioni di come l'Eterno trattava il peccato. Beato colui la cui trasgressione è rimessa, il cui peccato è coperto. Beato l'uomo a cui l'Eterno non imputa l'iniquità e nel cui spirito non ci è inganno. Versetto 1-2. Chi trasgrediva la legge dell'Eterno era debitore nei confronti del legislatore. Rimettendo la colpa per grazia, Dio non si aspettava più che l'uomo pagasse, e per questo era felice. Inoltre, la grazia faceva sì che la colpa venisse coperta. Coprire significa porre una cosa sopra ad un'altra perché si nasconda. La prima immagine che viene alla mente è quando l'Eterno coprì la nudità di Adamo ed Eva con delle tuniche di pelle. Infine, la grazia non imputava il peccato. Non imputare significa non tenere in conto. In effetti, la grazia riconosce la mancanza, ma non ne tiene conto. Il credente dell'Antico Testamento, che era colpevole davanti all'Eterno, perché era cosciente che non ci fosse nessuno esente dal peccare, con la rivelazione di un Dio che trattava il peccato in questo modo, non poteva che essere felice. È vero che il peccato commesso non era stato tolto, ma almeno per il momento il problema era risolto. I credenti dell'Antico Testamento non potevano comprendere appieno le vie dell'Eterno, ma per fede si accostavano a Dio ed erano felici. Purtroppo, dopo il re Davide e il re Salomone, il popolo di Israele abbandona la legge di Dio e l'Eterno a più riprese manda dei profeti i quali parleranno ancora maggiormente del piano di grazia di Dio. In quei giorni, in quel tempo, dice l'Eterno, si cercherà l'iniquità di Israele, ma non ce ne sarà alcuna, e i peccati di Giuda, ma non si troveranno, perché io perdonerò a quelli che lascerò come residuo. Geremia 52:0. Mediante il profeta Geremia l'Eterno promette che i peccati non si troveranno più, spariranno, mentre il profeta Isaia si esprime così: io, proprio io, sono colui che per amore di me stesso cancello le tue trasgressioni e non ricorderò più i tuoi peccati. 43:25. Il peccato non solo sparisce, ma ora l'Eterno parla di cancellarlo. Infine, ancora mediante il profeta Geremia, l'Eterno parla di grazia in questi termini: ma questo è il patto che stabilirò con la casa di Israele dopo quei giorni, dice l'Eterno, metterò la mia legge nella loro mente e la scriverò sul loro cuore. E io sarò il loro Dio, ed essi saranno il mio popolo. Non insegneranno più ciascuno il proprio vicino, né ciascuno il proprio fratello, dicendo, conoscete l'Eterno, perché tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande, dice l'Eterno, poiché io perdonerò la loro iniquità, e non mi ricorderò più del loro peccato. Geremia 31, 33-34. L'Eterno arriva a dire che non solo salverà l'uomo per grazia, ma arriverà a dimenticare i peccati commessi. Com'è possibile questo? Fino a quel momento l'Eterno aveva perdonato il peccato, lo aveva allontanato, rimesso, coperto e non imputato. Ma il peccato era sempre lì, non era stato tolto alla radice. E, vero che l'Eterno aveva profetizzato che il peccato sarebbe sparito, che lo avrebbe cancellato, che non lo avrebbe più ricordato. Ma una colpa rimane sempre una colpa. Come avrebbe fatto l'Eterno a risolvere questo grave problema del peccato? Lo esprime magistralmente l'Apostolo Paolo, che si poneva questo problema, nella lettera ai Romani. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono gratuitamente giustificati per la sua grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Lui ha Dio preordinato per far l'espiazione mediante la fede nel suo sangue, per dimostrare così la sua giustizia per il perdono dei peccati, che sono stati precedentemente commessi durante il tempo della pazienza di Dio, per manifestare la sua giustizia nel tempo presente, affinché egli sia giusto e giustificatore di colui che ha la fede di Gesù. Romani 3:23-26. Dunque il piano del Dio Trino fin dall'eternità era quello di rendere e dichiarare giusti tutti coloro che avrebbero posto fede in Gesù, quale unico mezzo per la loro salvezza. Dio aveva tollerato il peccato perdonandolo, allontanandolo, rimettendolo, coprendolo e non imputandolo, ma quando mandò il proprio figlio in carne simile a quella del peccato e a motivo del peccato, ha condannato il peccato nella carne. Romani 8:3 e ha potuto una volta per sempre, Ebrei 9:12-26-28-10-10, cancellare ogni colpa, farla sparire e non ricordarsi mai più dei loro peccati affinché la giustizia della legge sia adempiuta in loro. Romani 8:4. Con la sua morte Cristo stesso portò i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce, affinché noi, morti al peccato, viviamo per la giustizia, e per le sue lividure siamo stati guariti. 1 Pietro 2:24. Ora, se i credenti dell'Antico Testamento erano felici per fede perché il loro peccato, nonostante ci fosse ancora, non portava le conseguenze di un abbandono da parte di Dio e della perdizione, quanto più coloro che sono diventati figli di Dio per la fede in Cristo hanno una gioia eterna, perché Dio ha risolto la questione del peccato alla radice, non lo ha tollerato, perdonato, allontanato, rimesso, coperto, non imputato, ma è stato espiato, tolto da Gesù Cristo. Ora non cabinti e più, e mai più ci sarà. A chi ha posto fede in Cristo per ricevere il perdono totale dei suoi peccati, non resta altro che lodare, lodare e lodare. Attività, questa, tipica di chi ora, senza corpo, è già alla presenza di Dio. Marzo 2005, Ellero.